Tre civette sul comò? No, l'altro? No. scusate, è la prima, dobbiamo metterci bene. Ricominciamo con le civette. Tre civette sul comò, rubrica di cose varie sulle donne. Ecco, ci siamo. Ecco, questa sera. Furor d'amore lesbico, storie dal collegio. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti alla prima puntata della trasmissione Tre civette sul comò. Scusandomi per l'insolita apertura di trasmissione, comincio subito a leggere un brano. Pettinar Maria Bandinelli era l'aspirazione di tutte le educande, maggiori e minori. Il contagio si sparse per tutto il conservatorio. Ne vennero proibizioni, ammonizioni, rigori, minacce perfin di tonsura. Ti ricordi, Maria? Tutte le nostre anime erano allacciate da quel bel serpente nero che ti pendeva fino ai calcagni. Che pianti di passione la notte! E quando Gabriella Vanni, per gelosia, ti diede a tradimento una forbiciata? Proprio, Gabriella aveva perduta la testa. Ti ricordi? L'episodio narrato da D'Annunzio nel Piacere non è che uno dei tanti esempi possibili di quelle relazioni platoniche, passionali, pudiche, spudorate, tenere, feroci, che vanno sotto la generica quanto ambigua etichetta di amori di collegio. Definizione che immediatamente traccia le coordinate anche storiche di un fenomeno caratteristico dell'era moderna e che tocca l'apice nel XIX secolo, secolo per eccellenza di pratiche pedagogiche, scolastiche, separatiste. Due ragazze, spesso coetanee, o un allievo e la sua insegnante, geometrie o simmetrie amorose che cambiano, ma che sostanzialmente si incentrano sull'innamoramento, sulla passione forse, vissuti in un ambiente, quello del collegio, che come quello delle carceri o dei conventi, atti a favorire la concentrazione di individui di un solo sesso, è foriero di un fenomeno la cui rilevanza umana, sociale e culturale è stata, almeno in Italia, finora poco indagata. Innamoramenti adolescenziali, pedagogie del sentimento, intuizioni destinate a cambiare la vita o semplici prove tecniche di trasmissione. Innumerevoli le sfaccettature di rapporti liminari, una buona parte, spietatamente destinate ad essere travolti in genere dalla vita a venire, dai matrimoni, dalle gravidanze, dalle distanze, dal silenzio, ma che pure hanno lasciato tracce profonde, in alcuni casi indelebili. Come spesso accade, difficile definire il fenomeno e per diversi motivi. Vi è innanzitutto il limite insito nel tentativo di fare una storia dei sentimenti, per definizione privati e debolmente documentati. Vi è poi il problema specifico della conservazione di testimonianze relative a fatti e sentimenti fuori dalla norma eterosessuale di vite femminili che si vogliono vissute esclusivamente in funzione del matrimonio e della procreazione. Vi è infine il problema di definire dati sociali e umani di un fenomeno che, pur evidente e riconoscibile, nelle sue caratteristiche essenziali sfugge ad ogni classificazione. È paradossale quindi che proprio in Italia sia nato uno dei primi studi sul fenomeno, le amicizie di collegio, ricerche sulle prime manifestazioni dell'amore sessuale, un testo datato 1898 di Giulio Obici e Giovanni Marchesini. Giulio Obici è un medico alienista, Giovanni Marchesini è ordinario di pedagogia a Padova. Le fiamme, questo è il termine gergale adottato dalle ragazze stesse nei collegi, sono oggetto di un'analisi basata su una serie di interviste ad ex allieve e sull'analisi di lettere e altri scritti. Il testo si inserisce in una trattatistica scientifica sull'omosessualità che in Italia trae le mosse dal breve testo L'amore dei pazzi di Cesare Lombroso, 1881, dedicato all'amore invertito. Da notare tuttavia che Lombroso in questo testo non sembra tanto appuntare la propria attenzione su quelli che chiama gli orrori lesbi, quanto piuttosto sulla sessualità femminile giudicata in toto aberrante sull'assunto di base tipicamente tardo ottocentesco dell'esistenza di oscure pulsioni sommoventesi nelle profondità psichiche delle donne, soggetti aristotelicamente portatori di utero e ovaie, quindi irrimediabilmente predisposti alla deviazione e al sovvertimento. Che tanti individui di sesso femminili siano posti insieme non può che scatenare fantasmi e fobie, come lo stesso Lombroso testimonierà anni dopo. La riunione di molte donne, specie se tra queste vi siano delle prostitute e delle lascive, provoca per fermento imitativo nella comunità, per moltiplicarsi dei vizi di ciascuno, un vizio collettivo maggiore. Ora, le prostitute vivono spesso nude, in contatto continuo fra loro, spesso due, tre nello stesso letto. Nel gran mondo ciò si ripete nei collegi, nelle orge carnevalesche e anche religiose. Le preoccupazioni di Lombroso sono peraltro ampiamente diffuse. Nel 1895 Giovanni Battista Moraglia pubblica sul Lombrosiano Archivi di Psichiatria un saggio intitolato Nuovi studi su criminali, prostitute e psicopatiche. L'autore dedica parte del testo alle tribadi e alle saffiste, accuratamente e piuttosto lubricamente descritte e classificate secondo le presunte pratiche preferenziali: lo sfregamento vulvare reciproco per le tribadi, il cunnilingus per le saffiste. Quindi, dopo aver citato alcune lettere scambiate fra un insegnante e due allieve e dopo gli opportuni richiami alla legge, cupamente riflette. Così il nostro codice zanardelliano, che può dirsi fatto a protezione dei malvagi a scapito degli onesti, permette che una maestra, come la Y suddetta, corrompa fanciulle, minori o maggiori di 16 anni, affidate alle sue cure, ammaestrandole nelle oscene pratiche del tribadismo e ponendole per tal modo su quella china fatale che trascina all'onanismo incurabile, alla prostituzione, al pervertimento sessuale e a tutta una legione di mali fisici e morali. E intanto i parenti riposano sereni tra due guanciali, illudendosi che le figlie, chiuse in un educandato, siano al sicuro dalle tentazioni del mondo e sottratte ai pericoli sessuali. Ecco quindi che Obici e Marchesini sono ben autorizzati a dedicarsi al mondo chiuso del collegio, luogo ambiguo perché luogo femminile per eccellenza. Ritenuto sì atto a conservare l'indispensabile separatezza del mondo femminile da quello maschile e a controllare le esuberanze uterine e smarrimenti sentimentali, ma anche luogo pericoloso quanto mai, sentimento confortato da inoppugnabili statistiche. Dicono infatti, una nostra collaboratrice ha affermato che almeno il 60% delle normaliste si abbandonano a tali affetti e altre collaboratrici convengono su questa cifra approssimativa. Funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Oh, your looks are unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you speak? Are you smart? Oh, but don't change your hair for me. Not if you care for me. Valentine's Day. questa snervante altalena tra autorevolezza dell'istituzione e sua pericolosità, che resta vigile nella coscienza degli autori e anche in quella di Enrico Morselli, il celebre alienista estensore della prefazione al testo di Obici e Marchesini, la preoccupazione di rassicurare le famiglie che abbiano inviato le figlie in siffatti luoghi. Scrive infatti Morselli: non solo le donne sane, che hanno tutti i caratteri della femminilità normale, aborrono dagli affetti e dalle pratiche omosessuali, ma le stesse giovinette, che inconsapevolmente si sentono fiammeggiare per qualche loro coetanea, sono, in linea di massima, lontane dal cercare più in là delle semplici manifestazioni di simpatia e di amicizia. Simpatia, indubbiamente unilaterale di coppia. Amicizia, indubbiamente troppo calda nelle sue espressioni, troppo egoistica nei suoi gelosi timori. Ma omosessualità pur quasi sempre ignorata da quella fanciulla medesima che la sente e che ne è spinta a prediligere quell'una tra le sue tante compagne. Perché, in sostanza, le amicizie di collegio, le fiamme, sono inganni dell'istinto sessuale. Tali inganni sono per Morselli e i due autori fenomeni inevitabili, ma transitori e lombrosianamente connaturati anche a un problema di classe sociale e morale. Il testo, comunque, è strutturato nella presentazione di 10 coppie, delle quali vengono fornite i caratteri individuali e il decorso della relazione. Prendiamo ad esempio la settima relazione fiammesca, così vengono individuati. In un primo istante vengono presentati i caratteri individuali. Uno della cosiddetta L, interna, dai 14 ai 19 anni, di famiglia poverissima e che essa non nomina mai, forse vergognandosene, essendo molto altera. Ha un aspetto sofferente, piccola, bruna, pallidissima con occhi splendidi, intelligentissima, colta, precoce in ogni manifestazione psichica, scrive versi lirici e commedie, legge moltissimo e di tutto. Le compagne vanno a gara per averne l'amicizia, ma essa ha una fiamma interna che però le corrisponde male. L'altro soggetto dell'analisi di Obici e Marchesini è Z, interna, dai 15 ai 19 anni, di bandre nervosa, agiata, amatissima della famiglia, fin da bambina gelosa dei fratellini per le carezze che prodigava loro la madre. Timidissima, ha sempre sentito il bisogno di un intenso affetto per essere i più forti di lei. Alle scuole elementari amò fino al feticismo una sua maestra. In collegio desiderò l'amore di Elle e, nonostante i rifiuti, le fu sommessa e umile amica. Tentò vincere se stessa cercando altre fiamme, ma non vi riuscì. Poi nella vita i suoi affetti agli uomini conservarono sempre gli stessi caratteri di somma tenerezza, di sommessa umiltà, di cieca obbedienza. Dopo aver presentato le due protagoniste del settimo caso, i due autori presentano il decorso, il cosiddetto decorso della relazione fiammesca, di cui leggerò una parte. La Z amò L perché molto intelligente, per quel sentimento di forza che vi era in tutto il suo contegno. Dichiarò il suo amore ripetutamente per lettera, ma L, innamorata di un'altra, le rispose rifiutando il suo amore. La Z non si scoraggiò, non parlò dei suoi sentimenti, ma cercò di vincere l'amica coi fatti, prevenendo i più piccoli desideri della sua diletta. Essa stessa ci descrive con queste parole la sua passione. Noti il lettore che sono passati circa 30 anni da allora. Non l'accarezzavo, non la lasciavo mai, non ho mai avuto l'ardire di dirle a voce «ti voglio bene», ma quasi tutte le mattine, pettinandola, le rilisciavo e odoravo i capelli con infinito compiacimento e, quasi soffocata dall'emozione, la contemplava come fosse una santa. Nel testo purtroppo mancano alcuni elementi che ai nostri giorni sembrano indispensabili per garantire una certa scientificità del tutto. Ad esempio, non si danno notizie sui criteri di selezione degli oggetti di osservazione, né sugli istituti di provenienza, sulla classe sociale caratteristica di questi istituti, eccetera. E sarebbe interessante anche conoscere modalità di contatto e scelta dei soggetti intervistati o delle collaboratrici, dati tutti invece che mancano. Bisogna anche specificare che l'oggetto di studio preferenziale è la fanciulla e il collegio femminile, e dei maschi nei collegi si accenna appena. Tornando alle nostre collegiali, di ogni fanciulla vengono fornite descrizioni fisiche e psicologiche, abbiamo visto, non mancando di notare eventuali problemi o tare familiari. Di ogni storia si descrivono gli inizi, l'evoluzione del sentimento, le modalità d'espressione del medesimo, le eventuali complicazioni e l'epilogo, con narrazioni che divengono a volte avvincenti quasi come un romanzo. Mi vide per la prima volta nella stretta viuzza che conduce al convitto e più tardi, quando stringemmo nodo d'amicizia, mi disse che il mio visetto pallido, sotto il cappello ricco di piume nere, chino a terra, pensoso, le era tanto piaciuto. Is in your eyes, I look, your smile can't disguise. The look of love, it's saying so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love is on your face, a look that time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Don't ever go. I love you so. Ricordo che siete in ascolto della rubrica Tre civette sul Comò, dedicata questa sera agli amori di collegio. Colpisce, a dir la verità, e ad onta delle proteste di scientificità e rigore moraleggiante, un certo sottile coinvolgimento degli autori sul fronte della simpatia verso gli oggetti dello studio, quasi fosse difficile prendere le distanze da tanto fiammeggiar di sentimenti. Le iniziative, le trovate, le strategie amorose, comunicative e linguistiche delle ragazze vengono raccontate a volte quasi con stupore o con una nascosta ma palpabile ammirazione per tanta intraprendenza, ritenuta certo inusuale nelle donne. Caratteristico il modo in cui viene porto alla lettura uno stralcio di lettera fiammesca di una certa Mar, la quale si firma con lo pseudonimo di Gelsomino. Adorabile, non so come potrò corrispondere alla tua squisita gentilezza, mia cara, e veramente sono confusa. Le parole che il mio cuore mi suggerisce in questo momento sono moltissime, anzi, potrei citarti la bella similitudine dell'Ariosto, così veggian restare l'acqua nel vaso, per farti comprendere quanto esse siano e come mi riesca difficile l'esprimerle. Se il saperti amata da me può piacerti, ebbene, io sono pronta a buttarmi nelle tue braccia, esclamando: t'amo, gentil, ti voglio tanto, tanto bene. Come non si potrebbe amare una signorina bella, gentile, carina, leggiadra, spiritosa quale tu sei? Vederti e non amarti, umana cosa non è, Gelsomino. Commentano gli autori: parrebbe una lettera canzonatura, invece è una lettera dichiarazione, con tanto di punto esclamativo. Abbiamo detto che gli autori utilizzano documenti testuali di vario genere, dai memoriali agli epistolari, agli album di ricordi e dediche, analizzati e citati in ampi stralci. Fondamentale nell'economia delicata di sottilissime strategie d'amore, seduzione e possesso, la comunicazione epistolare. Il capitolo 2 è dedicato a Le lettere fiammesche, un tenero, straziante, esilarante a volte, centone di emozioni, di sollobollimenti del cuore e dei sensi, di infinite sfumature del sentimento e del desiderio amoroso. Obici e Marchesini indugiano nel descrivere le diverse tipologie dei supporti cartacei e della calligrafia, con intuizione precocemente semiologica. Scrivono: le lettere sono bigliettini eleganti fregiati d'oro o pezzetti di carta strappati al quaderno. Sono fogli variopinti da cui emana un dolce profumo o larghi fogli di protocollo. Sono caratteri fini e civettuoli o segni grossi ed ineguali, tracciati a matita in tutta furia. E vanno lettere lunghe 4, 8, 16 e perfino 28 pagine, così come fogliettini minuscoli, nei quali una sola frase condensa tutti gli affetti della scrivente. Attraverso le lettere passano sentimenti nobili e futili sciocchezze, grandi affetti e piccole ire, sorrisi e lacrime. La stessa forma calligrafica e letteraria, ad ogni momento diversa, riflette gli stati d'animo variabilissimi delle scrittrici. Con ottocentesca ostinazione, Obici e Marchesini, tra lettere e resoconti, classificano con pedante puntigliosità il fenomeno, costringendolo in una serie di descrizioni, dalla frequenza straordinaria in cui le innamorate si scambiano le lettere, alle tipologie dei colloqui lunghi, alle lunghe contemplazioni, dall'esaltazione delle qualità dell'amata all'uso appassionato di scrivere il suo nome dappertutto, dalla vanità per cui si corrisponde alle dichiarazioni fiammesche alla coscienza di far cosa proibita. Il fenomeno permane però sfuggente, tutto basato com'è su una continua tensione che gioca voluttuosamente con tutte le sfumature del sentimento, della devozione ma anche della passione carnale, sebbene solo in un caso di quelli citati tra gli autori la tensione amorosa ed erotica trovi un compimento anche fisico, su cui torneremo. La fiamma è amore e amicizia insieme. È, scrivono, in sostanza un principio di profanazione dell'amore da un lato e dell'amicizia dall'altro. È quindi qualcosa in cui si legano l'elemento fisiologico della sessualità incipiente, l'elemento psichico della naturale tenerezza propria dell'età e del sesso, l'elemento occasionale offerto dall'ambiente, l'elemento sociale dell'altruismo nascente. È anche però, a fronte di un modello di femminilità claustrofobica, schizofrenicamente oscillante tra l'angelo del focolare asessuato e l'isterica potenziale, il luogo di esercizio di libertà, di sperimentazione, di sogno, di ribellione. Quella coscienza di far cosa proibita che da sola vale tutto il resto, anche lo smarrimento, la perdita, la sofferenza. Come scrivono, v'è la dolcezza del dover nascondersi e l'attrattiva del mistero. Il libro di Obici e Marchesini ottiene un notevole successo editoriale, tanto da essere ristampato e diffuso anche all'estero, fino a essere addirittura citato nella celebre serie delle Claudine di Colette, segno peraltro di quanto il testo avesse colto nel segno, individuando ed affrontando un tema sentito e di come fosse forse anche andato a colmare un vuoto negli studi specialistici. Di una cosa Marchesini e Obici sono convinti: l'infatuazione amorosa nata in collegio è effetto di maturità sentimentale e sessuale delle soggette e si presenta come fenomeno transitorio in cui la fanciulla sperimenta in modo confuso quasi una sorta di iniziazione a un fantasma d'amore che più avanti troverà le forme compiute di una vita sanamente eterosessuale, quando le giovani usciranno da un luogo chiuso e isolato. Sono dunque le condizioni insolite della vita di collegio a guidare le collegiali all'amore, e tale esperienza amorosa, scrivono, nel grande numero dei casi è un fatto pressoché normale, ma racchiude in sé un grande pericolo, quello di decorrere tra persone dello stesso sesso. È una facile china lungo la quale molto dolcemente si può scendere e cadere nella normalità e nella degenerazione. Fino a che non ha manifestazioni chiaramente organico-sessuali, essa resta nei limiti della norma. L'infiammata, nelle divagazioni sentimentali delle lettere, non sfoga un amore definito, coscientemente diretto verso la compagna come donna, ma soddisfa un intimo, egoistico bisogno di espansione e tenerezza. Tutto questo fuoco sentimentale è bensì diretto verso una determinata fanciulla scelta fra tante, ma per un lavoro di astrazione, facile nei puberi, l'infiammata prescinde nel suo amore dal sesso dell'oggetto per vedervi soltanto certe qualità, bellezza, bontà, eccetera, che soddisfano certe sue particolari tendenze. Non sempre, peraltro, l'oggetto amato appaga soltanto queste sentimentali astratte aspirazioni, ma diventa, con qualità più concrete, l'oggetto di piaceri più concreti. Allora la natura dell'amicizia, della fiamma, diviene più chiara. I fenomeni psichici e gli organici si accordano, si armonizzano in un solo scopo, trovano nello stesso oggetto soddisfazione e piacere, si completano a vicenda. Allora, concludono i nostri due autori, per la strada del vizio si è già entrati nel campo delle degenerazioni sessuali. Years they will come and go. Sometimes the tears will flow. Some of my memories will fade, but I'll always remember that one September day. Did they know it would go astray? It began and it ended on one September day. We met by chance, people often do, but it blossomed, yes, it blossomed into something I never knew. Now it is in the past. They said it would never forget the Mohammed Day, not May or December, not June or November, but one September. Allora, stiamo parlando di un testo di Giulio Obici e Giovanni Marchesini, datato 1898, e intitolato Le amicizie di collegio, ricerche sulle prime manifestazioni dell'amore sessuale. Per continuare il discorso degli autori, più che la capacità di astrarre delle fanciulle dall'elemento fisico del rapporto amoroso, sembrerebbe essenziale un'idea molto cara al XIX secolo, quello di una sostanziale mancanza di interesse del sesso femminile nei confronti della sessualità. L'assunto è che le donne non fanno certe cose. Si tratta di un'argomentazione familiare, quella che ha evitato che nella maggior parte delle legislature europee ottocentesche si inserissero norme e articoli contro l'omosessualità femminile, ma è anche quella che ha rafforzato ancor di più l'invisibilità lesbica e protetto in una coltre di ambiguità e rimozione vite e situazioni fuori della norma. Tale granitica certezza, a dir la verità, non si presenta senza falle. Ne sono prove le testimonianze presentate da alcune collaboratrici e raccolte nel capitolo quarto dedicato a fiamma ed amore sessuale. Racconta ad esempio la collaboratrice che si firma con l'iniziale V. Una volta era il dì dei morti, che essa stava sola e pensosa, rincattucciata in un angolo del camerone del convitto, una compagna, quella che per ordine della direttrice l'aveva condotta il giorno del suo ingresso nel convitto al letto numero 13, le corse incontro e, continua la nostra collaboratrice, abbracciandomi mi chiuse la bocca con un bacio e mi accarezzò dolcemente i capelli. Guardai stupita, provai una deliziosa sensazione, un conforto supremo. Qui a principio l'idillio, una furia tempestosa di baci e di carezze che mi stordivano addirittura e facevano chiedere a me stessa il perché di un affetto così improvviso, così nuovo. Ingenuamente lo chiesi alla mia compagna ed essa mi rispose: «Io ti amo perché mi hai colpita appena t'ho vista, perché sei bella, sei bianca e perché sono felice, perché mi calmo quando posso passare le mani fra i tuoi capelli e posso baciare il tuo bel volto. Ho bisogno di un'anima e di un corpo». Sinceramente mi pareva allora che questo fosse un linguaggio da persona superiore, perché io non ne afferrava tutta l'importanza. Come la prima volta che mi accarezzò, la guardai stupita e sul momento non fui capace di rispondere ad una nuova furia di carezze e di baci. Sentiva io che non erano baci come quelli della mamma, del babbo, dei fratelli, delle altre mie compagne. Mi davano sensazioni sconosciute. Il contatto di quelle labbra umide e carnose mi turbava. Venne poi lo scambio di lettere e fra le due si stabilì l'osservanza dei diritti e dei doveri fiammeschi. Dovevamo baciarci incontrandoci, lei me lo aveva imposto, e salutarci semplicemente quando eravamo alla presenza dei superiori, perché le fiamme erano proibite nel modo più assoluto. Io obbedivo perché le volevo bene, sì, ma anche perché avevo proprio paura della sua gelosia da Otello. Mi soffocava, mi mordeva persino quando io giocavo allegra e spensierata con altre mie compagne, e guai a me se non la chiamavo quando mi pettinavo. Voleva vedermi coi capelli sciolti. Allora posava a lungo la testa sulle mie spalle, e quanto più ero in semplice accappatoio bianco che quando ero vestita completamente. Colpisce nel racconto di V la consapevolezza sessuale della sua compagna, quel suo dire di volere un corpo e un'anima. Scrive invece la collaboratrice che si firma M. Certamente le prime manifestazioni sensuali si svolgono nelle fanciulle con eccitamenti fisici puri e semplici, ma, almeno io voglio crederlo, la grande maggioranza delle collegiali trovano sufficiente sfogo nello stare più che sia possibile vicino all'essere amato, nell'ammirarsi reciprocamente e nel baciarsi. A ciò deve essere maggiormente rivolta l'attenzione dello studioso, molto spesso in discorsi poco morali, benché di solito molto metaforici. La stessa M riferisce di una coppia che sarebbe arrivata ad azioni tribadiche, per così dire, ma gli autori scartano di parlarne, adducendone a pretesto l'eccezionalità non utile agli scopi dell'inchiesta. Il pudore non impedisce però a Obici e Marchesini di riferire invece lungamente la testimonianza di Tardieu su tale Alexina B, presentata in lingua francese e forse per questo avvertita meno immediatamente scabrosa, in cui lungamente, per quanto castamente, si descrivono le esperienze sensuali della ragazza con l'amica Tecla, ma soprattutto con l'amica Sara, con la quale giace nel proprio letto, poiché, avvertono i nostri, questa seconda passione fu molto meno platonica della prima. Dette le preghiere, andavo a trovarla nel suo letto e la mia felicità era quella di prodigarle quelle piccole cure che la madre dà al suo bambino. A poco presi l'abitudine di spogliarla. Se si toglieva anche solo uno spillo senza di me, ne ero quasi gelosa. Questi dettagli appaiono futili forse adesso, ma sono necessari. Ciò che provavo per Sara non era amicizia, era passione. Io non l'amavo, io l'adoravo. Spesso mi svegliavo nel cuore della notte. Scivolavo furtivamente accanto alla mia amica, ripromettendomi di non disturbare il suo sonno d'angelo. Ma come avrei potuto contemplare il suo bel viso senza avvicinarvi le mie labbra? Poco prima delle 8, Sara saliva al dormitorio per sostituire il suo accappatoio con altri indumenti. Non sopportavo che lo facesse senza di me. In quei momenti eravamo sole. Io la contemplavo, accarezzavo con gioia indicibile i suoi bei riccioli aggraziati dei suoi capelli naturalmente ondulati, premevo le labbra ora sul suo cuore, ora sui suoi seni nudi. La pregai una notte di condividere il mio letto e l'accettò con piacere. Raccontare la felicità della sua presenza accanto a me sarebbe impossibile. Ero folle, folle di gioia. Abbiamo parlato a lungo prima di addormentarci, io con entrambe le braccia intorno alla sua vita, lei col viso poggiato vicino al mio. Sara mi apparteneva ormai, ella era mia. Porque no supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy, porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparezco. Analizzati i moventi, nascita, sviluppo, declino delle fiamme e loro pericolosità, non rimane a Obici e Marchesini che domandarsi cosa resta allo spegnersi di quelle emozioni nelle vite di coloro che le provano. E la risposta è trepidante di simpatia e nella sua semplicità fornisce a questa esperienza un valore assoluto. La fiamma non si dimentica, agisce in profondità forse, come riflettono gli autori a fine libro, e dicono: Ha dunque un fondo di vero il motto proverbiale che nella vita si ama una volta sola, quando si intenda nel senso che il primo amore dà spesso la nota fondamentale, la caratteristica personale di tutti gli amori dell'individuo. E continuano. Non dimenticammo mai di interrogare quanti nostri conoscenti erano vissuti in collegio e sempre ci siamo sentiti ripetere pressappoco le stesse cose da uomini e da donne, di ogni paese, di ogni condizione ed età. Ciascuno ricordava senz'altro, come fatto strano e saliente della pubertà, delle amicizie intime ed esclusive e ne notava subito i caratteri più particolari. La loro grande frequenza, l'acutezza passionale, le gelosie dolorose, la sovrabbondanza e la lunghezza delle lettere. E quasi tutti, anche se non indotti da domande dirette, tendevano a darne un'interpretazione col ricordare l'impellente necessità, in quella prima epoca di giovinezza, di un affetto, la solitudine e la monotonia della vita di collegio. Molti paragonavano quegli affetti antichi a quelli provati dopo, di pura amicizia o di puro amore, e stabilendo similianze e differenze, concludevano essere sempre l'affetto fiammesco molto più simile all'amore che all'amicizia. Tutti poi ricordavano con compiacenza quei sentimenti così speciali che non avrebbero mai più provato, ma che avevano per un brevissimo tempo tanto occupato l'animo loro. E se anche erano passati molti anni, avevano impresse nella memoria ogni particolare di fatto, ogni sfumatura di sentimento. Una signora, ad esempio, prossima ormai alla cinquantina, aveva conservate ancora, attraverso le burrascose vicende della sua vita, poesie e lettere della sua antica amica. Anche altri commenti sembrano confermare il carattere formativo, educativo quasi, di quell'esperienza, ricordata dalle protagoniste con affetto, con nostalgia forse, certo in modo positivo. La fiamma ebbe carattere dolce, quasi poetico, le lettere erano gentili senza esagerazione, e anche dopo gli anni di scuola le due amiche conservarono un ricordo gentile del primo affetto. Oppure, in un altro caso, la Zeta nella sua relazione aggiunge che, uscita di collegio, l'affetto per Lel perde molto dei suoi caratteri passionali, ma rimase sempre affetto profondo, unito a sentimenti di ammirazione e di umiltà. Anche dopo tanti anni, vivo è nella Zeta il ricordo di quelle prime emozioni. Mancano ad oggi studi complessivi sull'Italia ottocentesca in grado di controbilanciare con altre voci e documenti il volume di Obici e Marchesini, che in quanto tale rimane testimonianza preziosa e rara, sia pure mediata dallo sguardo degli autori, di un vissuto sommerso e molto difficilmente rievocabile, pur persistente al di là dei tentativi di definizione, anche e soprattutto dei nostri. Nonostante il clima censorio e patologizzante che percorre le pagine del testo, l'evidenza e la sostanza di passioni, emozioni e sentimenti a noi vicini si impone ancora oggi, nella sua freschezza e persino nel suo romanticismo. Siamo giunti alla fine del nostro incontro. Un grazie speciale a Sylvie per l'ausilio tecnico e a Bruna per la consulenza musicale. Abbiamo ascoltato brani di Yu Sun Nan, Etta James, Diana Kroll, Nina Simone, Julieta Venegas. Nell'augurarvi buona serata, vi ricordo che ci troveremo di nuovo il 22 ottobre alle 20:15 per la prima puntata della nuova stagione di Vissi d'Arte, Vissi. Buonanotte. E con questa bellissima canzone di Yoon Sung Na vi lasciamo per oggi, vi diciamo alla settimana prossima e buonasera, buonanotte e rimanete all'ascolto di Radio Onda Rossa. And warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things.